My Steve John. Twist the circus. Gira, tutto. Quando suona l'intervallo, Twist the circus, gira, tutto. Twist the circus, gira, tutto intorno. Twist the circus, zumba, papà, zumba, papà. Bella zia, topa, ragno, con le scritte sopra i muri. Gira, tutto il bagno. Gira, tutto. Twist the circus, gira, tutto intorno. Twist the circus, mille gocce sto trattando. Mille gocce sul fazzolo. Torcicollo. La cavalla scopa amica, mi schiaffetta la terza gamba. Va su e giù, non lo rompe mica. Scende il latte sulle ginocchia. Twist the circus. Gira, tutto. Twist the circus. Gira, tutto intorno. Twist the circus. Zumba, papà, zumba, papà. Bella zia, topa, ragno, con le palle prosciugate. Gira, tutto il bagno. Gira, tutto. Twist the circus. Gira, tutto intorno. Twist the circus. Mille gocce sto trattando. Mille gocce sul fazzolo. Torcicollo. Bambolina di pezza dirty. Da paura. Con le farfalle nella pancia. Da paura. Birbantessa tu zettara. Twist the circus. Chiudi la bocca che il prof ci sgama. Twist the circus. Gira, tutto. Twist the circus. Gira, tutto intorno. Twist the circus. Zumba, papà. Bella zia, topa, ragno. Ho macchiato le piastrelle. Gira, tutto il bagno. My Steve John. Gira, tutto. Twist the circus.